Beh, allora, da cosa è nata l'idea di questo incontro? Ci siamo resi conto del fatto che c'erano delle interessanti simmetrie tra i due libri di cui parliamo. Questa simmetria l'abbiamo sintetizzata nel titolo che abbiamo dato all'incontro, che è Soluzioni per la casa, perché ci sono due testi davanti a me, che potrete ovviamente acquistare al termine della presentazione, se no mi pagavano loro due. E quello di Giulio, che risale credo ormai 4 anni fa, è il progetto per una casa, e quello invece che è del 2024 di Antonio, che è Soluzioni per ambienti. Quindi Soluzioni per la casa è diventata la sintesi dell'incontro. Quali sono le simmetrie? Allora, sono il primo e al primo momento l'ultimo dei titoli della collana Manufatti Edizioni Manufatti Poetici, scusate, di 300 Edizioni. Sono due testi che parlano apparentemente della stessa cosa, cioè della casa, e vedremo che c'è una presenza ossessiva della casa in tantissime scritture contemporanee, di qualsiasi tipo, davvero, dai romanzi alla poesia, eccetera. E in più c'è un elemento che ritorna abbastanza spesso: se mostrate una pagina qualsiasi, per favore, dei vostri testi, sono testi che presentano forti spazi bianchi, cioè il vuoto è molto evidenziato, in particolare nel libro di Antonio, più che in quello di Giulio, perché nel libro di Giulio il testo rimane in alto, non è particolarmente lungo, insomma, vedete, riesce sempre a lasciare uno spazio bianco molto, molto insistito. Quello di Antonio invece è proprio diviso in due, in mezzo c'è il vuoto, c'è una sequenza di versi, ma poi ci ritorno. In alto e in basso, e in mezzo il bianco. Allora, torno subito su questo. Da una parte c'è un testo in prosa, palesemente riconoscibile come prosa, forse si è riconosciuto anche al momento della lettura. Dall'altra, un testo costruito secondo delle stringhe, forse potremmo chiamare meglio così, ne avevamo già parlato, più che dei versi, che sono riconoscibilmente tratte oppure inventate da lui, su una forma di parodia, sui cataloghi di arredamento, sui consigli per l'arredamento, eccetera. Quindi da una parte abbiamo il progetto per la costruzione, o meglio la ristrutturazione, o meglio ancora la distruzione di una casa, che è di fatto il progetto di installazione. Se ci si pensa, alla fine del libro si ha la sensazione, nel caso del libro di Giulio, di aver letto il progetto per la realizzazione di un'installazione, che presenta schermi all'interno, presenta uno spazio aperto dalla parte opposta della soglia, eccetera. Insomma, potrebbe essere tranquillamente una cosa visibile all'interno di un spazio molto grande, hangar bicocca, questi posti che piacciono a noi, o Arsenale di Venezia. Dall'altra, invece, dicevo, ci sono queste stringhe di testo montate secondo logica combinatoria, non tornano sempre dal punto di vista grammaticale, però cioè, hanno una loro sequenzialità, diciamo, e anche una loro circolarità, che se non sbaglio sottolineava Marco alla presentazione del libro di Antonio, che è appunto lo smontaggio e rimontaggio continuo di queste particelle di materiali. Poi ci dirai se veramente sono tratti dai cataloghi o l'hai inventati tu. Diciamo che i testi hanno un'altra somiglianza, che è quella della progettualità, cioè il testo di Giulio, come molti testi di Giulio, dà delle istruzioni per l'uso, per la realizzazione di qualche cosa, oppure comunque, come è spesso capitato in passato, costruisce uno spazio dentro il quale deve succedere qualcosa che però non succede all'interno del testo, ma succede al di fuori. Lui costruisce degli spazi, dei contenitori da riempire. Invece nell'altro c'è una logica prescrittiva, cioè fai questo, se metti il faretto in quel modo succederà questo, non deve mancare cos'era, il pesce neon, l'acquario è fondamentale, cioè tutte soluzioni predefinite per l'arredamento della casa, quindi che vanno verso una completa spersonalizzazione dello spazio domestico. Altro elemento di presenza è determinato da quel vuoto che dicevo prima. C'è Nel caso di Antonio, il testo torna spesso sul vuoto, ci si assenta spesso da casa, c'è un'insistenza sull'invisibilità molto, molto forte. Dall'altra, invece, è molto evidente l'assenza di esseri umani. Sono state nominate delle persone, lo spazio, la casa è uno spazio per avvicinare le persone, in realtà le persone non ci sono. Compaiono alla fine, verso una, sempre lì, sempre una sorta di installazione. Penso che se giriamo per un museo d'arte contemporanea, scene di questo tipo ne troveremo a migliaia, cioè uno spazio che è stato appena abbandonato da esseri umani. Noi siamo stati l'altra settimana alla Biennale di Venezia e c'erano almeno tre o quattro di questi tipi di spazio, cioè un tavolo. Una casa abbandonata da tempo, come però se le persone fossero appena uscite. Qui c'è una scena del genere, le 11, 12 o 11, non si capisce mai quanto. 11, 11. perché 12 è lo scritto, hai ragione. 11 persone che entrano dentro questa casa, eccetera. Qui l'essere umano non c'è mai, praticamente. Ed è paradossale perché. Stiamo parlando della casa, cioè lo spazio abitativo per eccellenza da sempre, cioè lo spazio domestico, lo spazio chiuso dove gli esseri umani dovrebbero abitare, appunto. Invece c'è il vuoto, non c'è nulla di tutto questo. Quello che prevale è, soprattutto in maniera molto evidente nel libro di Antonio, sono gli oggetti, quindi il tavolino da caffè, il divano, il tappeto che non può mancare. Anche quello, se non ricordo male, perché dà un senso di, non ricordo se di pace, termine che ricorre tantissimo nel suo libro, l'ho contato svariate volte, pace e tranquillità, cioè l'idea è sempre che l'arredamento, i colori delle pareti, la carta da paradi o quello che sia, devono comunque comunicare a chi vive dentro quella casa, che però non c'è, questa pace e tranquillità. C'è l'idea che si possa a un certo momento rientrare dentro questa casa, cioè, qui c'è qualche figura animata, che però questa figura animata sta sulla soglia, i bambini che giocano con i sassi, eccetera. Quindi da una parte abbiamo la descrizione, diciamo, di un interno, quindi uno spazio assolutamente chiuso, e come questo spazio può essere riempito, di oggetti. Una cosa che collega fortemente i due libri quando si dice come se qualcuno che vuole sparire dentro gli oggetti della casa, no? Cioè quello che di fatto in qualche misura succede, perché gli oggetti prevalgono su tutto. E, dicevo, torno alla soglia un attimo del libro di Giulio. Perché è interessante, perché credo che sia, posto che entrambi i libri hanno, diciamo, una tensione allegorica, secondo me, piuttosto evidente, la soglia è un'allegoria, credo, perfetta dell'esistenza contemporanea. Adesso non voglio attribuirgli, come dire, riflessioni sui massimi sistemi, che sono abbastanza impegnative, però effettivamente l'idea di essere sulla soglia, tra uno spazio che è indefinito, di fatto, tra un esterno e un interno, e uno spazio che, come viene raccontato nel libro, non è una casa vera come la immaginiamo, perché una parete è sfondata, cioè c'è una parete aperta verso l'esterno, per cui questo spazio non è né interno né esterno. La cosa curiosa è che appunto c'è una situazione di equilibrio sostenibile, se non sbaglio, dici tu, che è quella del soggetto, diciamo, proprio per tirarla proprio in maniera molto semplice. Del soggetto contemporaneo, cioè che vive in una condizione di soglia indefinita, che può rimandare per esempio all'elemento della precarietà dell'esistenza. E il tema casa rispetto alla precarietà dell'esistenza, precarietà soprattutto economica, del mondo in cui viviamo, è fortissimo. Ora, sulle riflessioni sulla casa magari torniamo dopo, però trovavo interessante appunto questo elemento della soglia che è una ricerca di un equilibrio. Nel caso invece del libro di Antonio mi sono venute in mente, e gliel'avevo già detto, le cosiddette back rooms, cioè che sono uno spazio virtuale, o meglio, inesistente, ma forse esistente, cioè nel senso che quelle famose back rooms che si vedono. Su internet, in alcuni casi pare che siano vere, non siano generate da intelligenza artificiale, eccetera. E E mi sono appuntato una frase dal libro di Valentina Tanni, che è Exit Reality, in cui si parla delle backrooms, che dice che danno questo tipo di sensazione, che secondo me si attaglia perfettamente a entrambi i libri, ma in particolare a quello di Antonio. Un vago senso di desolazione, una forte inquietudine e una generica nostalgia. Ora, casa nostalgia è ovvio, no? Cioè, sta nel termine stesso, il dolore del ritorno. E dorno dove? Ovviamente a casa. Però qui non c'è forse l'elemento della nostalgia per un mondo perduto, non direi, però il senso di inquietudine e di desolazione, determinato dal fatto che non ci sono gli esseri umani, qui ci sono soltanto gli oggetti d'arredamento, lì ci sono a un certo punto compaiono degli schermi su cui si dovrebbe vedere qualcosa, ma di fatto non si vede niente, come spesso accade, cosa che richiama peraltro al discorso che dicevo prima del suo dell'invisibilità, vedete quante simmetrie ci sono. Dicevo, questo discorso della desolazione, del vuoto, è molto, molto presente. Tant'è che mi dicevo, una delle domande era che avevamo proposto nella locandina, era se la casa è uno spazio da riempire, uno spazio vuoto, in effetti, uno spazio da svuotare o da riempire, perché effettivamente non si capisce. Quello che si capisce è che però abbiamo di fronte degli spazi privi di un'identità. Questi, in particolare, le soluzioni che vengono proposte al soggetto sono delle soluzioni preconfezionate. Vuoi la pace e la tranquillità? Metti il tappeto davanti al divano. Cioè, poi a un certo punto è il tappeto patchwork che non può mancare, non ricordo per quale effetto deve fare, Manco cioè, immagino, eccetera. C'è sempre l'idea che le emozioni siano preconfezionate, cioè non sono personali, sono semplicemente quello, cioè tu ti metti questo oggetto dentro casa e automaticamente succederà questo. Ora qui possiamo aprire finalmente la riflessione su IKEA, perché no, c'è una ragione per cui lo dico. Perché spiego tu, perché della foto. Sì, perché mi è venuta questa insulsa idea quest'estate di andare a fare una sorta di installazione no, permanente, Abusiva. temporanea abusiva all'Ikea con questi due Site libri, specific, però site questo. specifiche, e quindi con l'aiuto di Gaia, che è la mia figlioccia, siamo andati, direi nottetempo, ma no, giornotempo, in mezzo a un sacco di gente. C'erano questi due, poi forse perché è una ragazza carina e si vede che è giovane e bella, non mi hanno arrestato, però andavamo a mettere questi due libri in vari luoghi dell'IKEA dove magari c'era qualche scritta che poteva creare ambiguità rispetto al libro oggetto e niente, quindi era un po' una stupidaggine per mettere insieme un po' di foto per la presentazione, però parlandone con Massimiliano poi l'altro giorno è venuta anche una bella formulazione a riguardo, che io non ricordo però che cosa ci eravamo detti, No, nemmeno io, però però c'era c'è una bella cosa da una bella dire idea che è rimasta però nella che nostra mi è rimasta chiacchierata. in Sì, questa chiacchierata e no, boh. fondamentalmente l'idea è che Ah no, ecco, dilla te. no, è quello che dico io, che ricordo io, è che l'idea che IKEA o qualsiasi altro, insomma, tipo di produttore di questo tipo produce oggetti tutti uguali, ovviamente, e produce case standardizzate, no? Cioè, nel senso che entriamo spesso nelle case altrui ed è come se entrassimo a casa nostra o a casa di chiunque altro, cioè l'essere chiunque, chiunque, potremmo citare Vincenzo, Ma infatti era cioè per siamo questo tutti che forse chiunque. c'era, io prima citavo a casa di qualcuno, chiunque sia, il progetto della casa è destinato a fallire nel libro, così come nel libro di Antonio dicevi tu, le emozioni preconfezionate sono anche il fatto che chi arreda, tutti noi arrediamo le case, in parte almeno quelli che abbiamo tutti gli stessi mobili, Tutti tanto che stessi mobili. cerchiamo ogni tanto di fare qualcosa di diverso, di diversificarle. E quindi era un po' quello il tema per cui i due libri a leggere ci stavano anche bene, ma insomma era più nato come gioco questo in effetti. Torniamo alla questione casa, visto che l'abbiamo sollevata. Allora, mi ricordo che con Antonio era uscito proprio il discorso della precarietà, no? Del soggetto. Primo perché abitare stanca, come dice il libro di Sarah Gainsford, cioè nel senso che effettivamente la politica della casa, che dovrebbe essere una delle prime politiche degni di un paese civile, non esiste più di fatto. E quindi immaginate le generazioni più precarie, cioè, che rapporto possono avere con la casa, cioè quello che dovrebbe, che una volta era il rifugio, c'era, cioè il luogo a cui tendere, oggi è un oggetto assolutamente sfuggente, mutevole, si cambia spesso, spesso casa, eccetera. Non è soprattutto uno spazio rassicurante, cioè di solito... diciamo che nel corso del tempo, senza arrivare al nido pascoliano, insomma, che non esageriamo, però tendenzialmente la casa è il luogo di rassicurazione classico, dove io mi sento protetto dall'esterno. In realtà nessuno dei due, per quando io dico luoghi di inquietudine, nessuno dei due spazi costruiti da loro due è rassicurante, perché quello di Giulio è aperto, appunto. È di fatto una dimensione continua di soglia, c'è cioè uno sfondamento tra l'esterno e l'interno. Quello di Antonio è pieno di oggetti, come se la presenza umana fosse poi alla fine superflua, se non addirittura inutile. L'altro elemento ovvio nei tempi che viviamo rispetto alla casa è quello della migrazione, lo spostamento, cioè, e anche qui la questione casa diventa completamente da ripensare nei tempi che viviamo. Però se guardiamo indietro al Novecento, per esempio, la casa era, non dico non presente perché c'è, però lo sguardo di solito della poesia era verso l'esterno. E ancora oggi vengono pubblicati in Italia libri in cui si parla degli alberi, delle montagne, cioè, cosa che a me sconvolge, però succede. Uno è in classifica in questi giorni, nella classifica di qualità dell'indiscreto, e si riesce a praticare ancora un certo tipo di poesia. Ora, si potrebbe fare lirismo anche con la casa, naturalmente, non dico che non si può fare, si deve fare soltanto con le montagne e con gli alberelli, però notavamo l'insistenza, tu ci hai anche scritto tra l'altro su questo, anzi adesso ti lascio la parola, l'insistenza molto forte di molte scritture contemporanee e soprattutto delle scritture di ricerca sull'argomento, cioè o c'è nel titolo la casa, penso la casa esposta di Marco, o c'è l'oggetto d'arredamento, il Coffee Table Book di Alessandro Broggi, o la casa è diciamo in questo caso è per metonimia il pavimento delle storie di Gerardo Bortolotti, la casa ovviamente evocata, lo spazio dentro cui si svolge oppure anche le camere d'albergo dello stesso Gerardo, ma anche il romanzo mainstream, chiamiamolo così, si occupa di questo, perché penso al libro delle case di Andrea Baiani, per esempio, che racconta in chiave puramente esistenziale, ma racconta spazi chiusi, non sono sempre case, ma comunque spazi chiusi, cioè la poesia contemporanea è abitata da spazi chiusi. Ti lascio la parola perché tu ne hai scritto, quindi forse fai una sintesi. No, mi accodo a quello che dici in realtà, perché confermo, diciamo, abbiamo notato una cosa simile, appunto questa ricorrenza della casa, e soprattutto, credo in maniera interessante, la ricorrenza della casa appunto come spazio non più accogliente, non più stabile fondamentalmente. L'altra volta con Marco facevamo un esempio facilissimo, che è quello di Pascoli, no? Quindi il potere conchiuso, il focolare domestico, una dimensione di assoluto controllo da parte dell'individuo e quindi anche del poeta che lo racconta, no? In queste scritture qua un filo rosso che potremmo trovare invece è l'incapacità di controllare lo spazio domestico, che è paradossale, perché appunto lo spazio domestico nostalgicamente dovrebbe essere lo spazio di rifugio, lo spazio di protezione. Io credo, ovviamente fare del determinismo spicciolo non ci aiuta, però ragionando un po', giocando un po' con questi concetti qua, io credo che si veda un po' in queste scritture il riflesso di una trasformazione dell'abitare che è planetaria fondamentalmente ed è una trasformazione su tanti livelli. Parliamo ovviamente del caro affitti, parliamo del fatto che è difficilissimo avere e comprare una casa, parlo soprattutto ovviamente per le generazioni più giovani, no? Il fatto quindi di reinventarsi le pratiche abitative, la famiglia che è un po' storicamente il custode della casa, è in un una fase di trasformazione. E quindi ecco, io credo che sondare attraverso le scritture, in particolare le scritture che sono contente di esplorare forme diverse da quelle della tradizione, possa far emergere un po' questi dettagli qua. Prima citavi le backrooms, no? Sì. Che è una cosa che, come ti dicevo, interessa molto anche a me. Tra l'altro sto lavorando a un testo che si chiamerà proprio Backrooms, in prosa, e quelle sono un fenomeno di internet che appartiene al mondo dei meme, inteso in maniera molto molto vasta, che però è veramente allegoricamente potente, sì, perché fondamentalmente sono degli spazi labirintici, liminali, quindi assolutamente spogli, minimali, un po' inquietanti, che vengono dalla cultura videoludica che si vive quindi dentro casa, e rappresentano secondo me anche un po' un glitch mentale della percezione della casa. Cioè sono le retrostanze, sono quella dimensione insondata dello psicologico che deriva da una frattura tra l'individuo e lo spazio che abita, tra l'abitante e l'abitato fondamentalmente. Sì, c'è, infatti diciamo, le backrooms sono l'allegoria perfetta della porosità che c'è ormai tra la casa e lo spazio esterno. Anche perché, scusate se ti interrompo, il meme è diventato famoso con la frase che dice: if you know clip out of reality, cioè se attraversi per sbaglio il muro della realtà, entri nelle backrooms, quindi c'è tutta questa... Sì, sì, nei videogiochi è semplicemente per causa di un glitch, oppure perché è voluto dallo stesso creatore del videogioco, cioè da un certo punto si attraversa una parete in genere e si finisce nelle backrooms. Sono su spazi inquietanti che sono, di solito non sono case tra l'altro, sono però spazi pubblici, tipo corridoi molto lunghi di palestre viste di notte con questi neon battenti, molto ronzanti, oppure scuole abbandonate d'estate perché completamente vuole, non c'è mai la presenza umana, questa è appunto la cosa essenziale, oppure gli spazi dei centri commerciali, che sono un classicone delle backrooms, i garage dei centri commerciali. Poi è molto utilizzato dal mondo dell'horror tutto questo, ovviamente aveva cominciato Romero negli anni 70 con col centro commerciale con gli zombie, l'aveva capito molto prima di tanti, però non è necessariamente una cosa che ha a che fare con l'horror. Dicevo, c'è una porosità che sta lì, per esempio, la famosa soglia, appunto, o gli schermi dentro la casa, che è molto evidente nelle nostre vite, semplicemente del fatto che viviamo, come si usa dire, se non ricordo più di chi è la definizione, mi pare di Luciano Floridi, on life, cioè il fatto di vivere dentro casa ma con un collegamento continuo con l'esterno che è determinato da internet, o il fatto stesso che non c'è più la delimitazione tra spazio domestico e spazio di lavoro, cioè non c'era bisogno dello smart working per far saltare questa definizione, però è successo in effetti, cioè ormai i due spazi sono esterno e interno, sono completamente porosi e uno entra nell'altro. Non solo, quando si parla di case nella scrittura contemporanea dovremmo dire spazi chiusi, cioè di fatto è sparita la natura, quando c'è è proprio seconda natura, proprio nel senso puramente marziano, cioè quella del pesce dentro l'acquario, la pianta che devi mettere in un certo modo, portare la natura in città, se non sbaglio, no? Dice una cosa del suo genere, vuol dire che la natura come spazio altro, completamente diversificato rispetto allo spazio urbano, di fatto non esiste più. Quindi quello che viene rappresentato è sempre solo lo spazio urbano. Questo nella poesia, perlomeno fino alla metà del Novecento, non c'è. Cioè, veramente quasi inesistente. Lo spazio urbano è... lo spazio chiuso, scusate, è davvero molto poco presente. Quando c'è lo spazio della città, c'è lo spazio del movimento, della piazza, della strada, eccetera. Mentre invece, ora, non so se questo abbia a che fare col buon Jameson e con la spazializzazione della cultura e col postmodernismo, ma in linea massima penso di sì. Insomma, il fatto appunto che la seconda natura si è mangiata completamente la prima, di fatto. Volete fare la seconda lettura? Mi fermo. Okay. Poi vediamo come sono fatti i libri. Lasciatelo a voi. Io farei solo una premessa, perché poi, come avete notato, noi ci siamo organizzati per non avere soluzioni di continuità nelle nostre letture. Nella seconda mia sezione io accenno a una cucina su ruote, però non leggo la parte in cui introduco la cucina su ruote. Nel libro uno degli elementi è descrive l'iperfunzionalità di oggetti che arrivano a un certo punto ad esprimere un assurdo. Introduco il concetto della cucina su ruote perché basato sul fatto che la cucina ti deve seguire quando hai fame, quindi anziché essere tu ad andare in cucina quando hai fame, te l'hai tutta presso perché quando hai fame così cucini. E quindi c'è questo elemento della casa che è la cucina a due ruote e che arriverà nella seconda sezione. Osservata dalla soglia, la casa può risultare leggera, quasi impalpabile, ma la casa in cui si abita è densa di gravità. Ogni corpo, ogni oggetto, le stesse mura scaricano il loro peso escludendo, a causa del soffitto, l'illusione di un ipotetico sollevamento, anche soltanto immaginario. La casa incombe e ci stringe tra le sue pareti. Rimanendo sulla soglia, dovremmo necessariamente ipotizzare che il perimetro della casa non sia chiuso, che da un lato rimanga aperto, senza mura, non può essere la soglia l'unica via d'uscita. Dobbiamo ipotizzare un'alternativa. Un lato della casa rimarrà aperto verso l'esterno, privo di mura. Dato che senza pavimento cadremo nel vuoto, cammineremmo, pranzeremmo, dormiremmo su terra umida e permeabile e che senza soffitto saremo esposti alla variabilità degli agenti atmosferici, priveremo la casa di un muro perimetrale. Restando sulla soglia, che rimane il punto di maggiore attendibilità, la scelta più immediata è di rimuovere la parete più lontana dal punto di osservazione, che se la pianta della casa fosse quadrata o rettangolare, corrisponderebbe al lato opposto alla porta di ingresso. Le altre pareti rimarrebbero spoglie. Qualsiasi immagine di qualsiasi tipo e ancor peggio qualsiasi specchio sarebbero affissi al muro a osservare, sino a scambiare i ruoli e diventare essi stessi abitanti della casa, per quanto immobili, costringendo a eludere quell'osservazione senza sguardo, ferma e mutevole a un tempo, in ragione dei nostri movimenti. Essendo spoglie le altre mura, resta nelle prerogative del lato perimetrale rimasto aperto sfidare la monotonia del bianco o di qualsiasi altro colore siano intonacate le pareti. Sono in ogni caso preferibili colori neutri che possano interferire il meno possibile con la variabilità cromatica della quotidianità. Per quanto riguarda i libri, non dimenticare l'importanza del colore. Se ami l'eleganza, scegli il bianco. È consigliabile dipingere la nicchia, anche per dare più profondità allo spazio. Puoi scegliere scaffali in vetro, sfrutta l'altezza delle pareti. Se si hanno delle sedie in più, nel caso ci siano ospiti, quando gli ospiti non ci sono, le sedie sono in più. Sono delle sedie utili, non essendoci gli ospiti. Un altro capitolo riguarda le lampade. Non trascurare la qualità della luce. Il criterio deve essere condiviso. Nell'acquisto delle lampade e di altri oggetti, se i LED sono chiari, si ottiene distanza. Il concetto di arredare, che una casa viene arredata, ciò che è alla base del concetto che degli arredi vengono aggiunti, che una casa si arreda. Quanto al pavimento, vi sono tre motivi per scegliere il legno. Non passa mai di moda, disperde il calore e il resto viene da sé. Potrebbe essere installato un circuito di telecamere sparse per la casa che trasmettono in tempo reale su schermi posti nei pressi della porta d'ingresso immagini in sostituzione di ciò che, prima della realizzazione dei bagni, poteva cogliere lo sguardo. Osservata dalla soglia, adesso la casa risulterà frammentata in una serie di immagini relative alle varie zone di cui è composta, fatta eccezione per le porzioni di bagno e con l'incognita della cucina su ruote che potrà essere spostata da zona a zona e quindi comparire da immagine a immagine. Su un primo schermo, posizionato in alto a destra per chi entra, notiamo che sul lato sinistro della casa, tra la porzione di bagno all'ingresso e il lato perimetrale opposto rimasto aperto, sono disposti una serie di letti, alcuni dei quali totalmente orizzontali, altri con una metà rialzata tipo schienale. Tali letti sono presumibilmente dotati di un congegno che permette all'occorrenza di trasformare il letto in seduta. Nessun letto è coperto da lenzuola, ma appoggiato su uno dei letti orizzontali notiamo una sorta di largo sacco a pelo con cuscino incorporato. desta attenzione l'assenza di qualsiasi elemento architettonico ulteriore posto come divisorio. Nessuna traccia della cucina su ruote. Su un secondo schermo, posizionato in alto a sinistra per chi entra, notiamo che sul lato destro della casa, dalla porzione di bagno all'ingresso e il lato perimetrale opposto rimasto aperto, sono disposte due lunghe panche, tra le due panche un tavolo già apparecchiato per 12 persone. Nessuna traccia della cucina su ruote. Su un terzo schermo, posizionato in alto a sinistra per chi entra sopra l'altro schermo, viene ripresa l'uscita della porzione di bagno adibita a detersione situata all'ingresso della casa. Da essa vediamo una alla volta uscire 11 persone che poi scompaiono dall'immagine, apparendo alcuni sullo schermo di destra mentre si accomodano sui letti, altri sullo schermo di sinistra mentre prendono posto al tavolo. Nessuna traccia della cucina su ruote. Su un quarto schermo, posizionato in alto a destra per chi entra sopra l'altro schermo, viene ripresa la cucina su ruote. Manca tuttavia qualsiasi altro riferimento per comprendere dove essa sia situata. Trascorso un discreto lasso temporale, senza che nelle immagini si verifichino significative variazioni, non essendo comparsa la cucina su ruote, le 11 persone, una alla volta, attraversano la porzione di bagno situata all'ingresso e sfilano dinanzi al nostro sguardo, uscendo dalla casa. È evidente che c'è stato un errore da parte loro o da parte nostra. Non era questa la casa che cercavamo. Abbattiamo nuovamente la casa, voltiamoci verso l'esterno e scegliamo una soluzione alternativa. Un pratico tavolo a scomparsa, che può ospitare fino a 16 posti pranzo, quando non occorre può scomparire. Tra gli utensili è bene scegliere un ambiente che abbia delle parti visibili e altre che possono scomparire. Nel caso di bambini, se dei bambini vivono con voi, è opportuno utilizzare dei moduli, tramite cui i bambini possano sentirsi, si sentono dei moduli nei bambini, e così via. Inoltre è buona cosa assicurarsi che non manchi mai della musica. La musica rende ospitale un ambiente. Riposando in un ambiente con la musica, si viene ospitati, nel senso che ogni ambiente infine ha la sua musica. Un bel pavimento in parquet è sicuramente una soluzione elegante, una delle soluzioni eleganti, tramite cui ridisegnare la vostra immagine, della casa e vostra. E poi la sera si può entrare fisicamente quasi dentro gli oggetti, perciò niente deve essere lasciato al caso, nell'esperienza immersiva del design, che si modifica attraversandola, che si produce a partire. Allora, mentre Giulio leggeva la sua parte, stavo pensando che in qualche modo sembra la descrizione del fallimento di molta utopia dell'architettura novecentesca, cioè lo sfondamento verso l'esterno, no? Penso a alcune case anche famosissime, so, la villa sulla cascata, eccetera, cioè quel tentativo di rendere appunto comunicanti lo spazio architettonico e lo spazio naturale. Penso alla casa di Lina Bobbardi a San Paolo, cioè tutte vetrate in mezzo alla foresta, cioè questo sembra in realtà il fallimento, cioè dell'impraticabilità di quell'idea, però insomma una cosa estemporanea è uscita adesso. Allora, una delle cose che ci siamo detti l'altro giorno io e Giulio, forse adesso mi sta tornando in mente, era questa, che era molto evidente dalle vostre dei vostri sorrisi, cioè quando il particolare ultra realistico viene ingigantito diventa completamente straniante. Cioè ora in alcuni, forse nella prima parte che aveva letto si intuiva meno, nella seconda era molto più evidente. Tutti e due i testi hanno sono percorsi in una notevolissima ironia. E soprattutto nel suo, in cui il montaggio fa la differenza, ovviamente ci sono delle contraddizioni, cioè quello del resto viene da sé, o queste cose che devono scomparire. Questo scomparire torna continuamente nel suo libro. Cioè a un certo punto che gli spazi che vengono divisi a seconda della divisione degli spazi, se non sbaglio, cioè è del tutto tautologico quello che viene detto, cioè completamente insensato, semplicemente basta farlo parlare, basta metterlo in evidenza e ingigantirlo. E la stessa cosa succede nel testo di Giulio. Tra l'altro notavo anche che in qualche modo c'è un'evocazione del sacro nella casa, perché non l'ha detto, il bagno, cioè quello che serve per la detersione, perché quello per l'espletamento delle funzioni fisiologiche viene posto all'esterno, sullo spazio per ovvi motivi. Invece quello per la detersione è all'ingresso. Cioè, per entrare ti devi lavare fondamentalmente. Eravamo in tempi di Covid. Lavacro, sì, esatto. Sì, anche tu nel 2020, esatto. E il lavacro, però io pensavo al lavacro sacro. Poi ci mette delle 12 persone, io mi è scattato immediatamente il click sacro. Insomma, manca il tredicesimo, però. Benvenuto. Allora, dicevo, a parte l'ironia del... No, magari tu spiega poi come è costruito, come sono costruiti i testi. Allora, la cosa che notavamo è questa consonanza che c'è tra scrittura e, usando un termine insomma, molto generico, architettura. Allora, che cosa fanno questo tipo di scrittura? Cioè, è difficile non parlare di scrittura installativa, cioè una scrittura che costruisce uno spazio che può fare a meno, proprio letteralmente, del soggetto, e addirittura lì si parla di un'osservazione senza sguardo, cioè proprio il massimo in questo senso, e notavamo che c'è un elemento di abitabilità, no? Era questo l'elemento comune, cioè il fatto che siano spazi attraversabili. Cioè, che cosa fanno l'architettura e la letteratura? Utilizzano la scrittura, preferisco, utilizzano materiali che vengono utilizzati anche per altro. Cioè, lo spazio comune, io dicevo a lui l'altro giorno, quando è che noi decidiamo che quell'architetto lo possiamo inserire nei libri di storia dell'arte e quando invece è un semplice costruttore di palazzine? Difficile in questo senso. Però l'architettura serve a qualcosa, cioè l'architettura crea degli spazi, e esattamente come la lingua usata dalla scrittura letteraria serve anche ad altro, cioè per comunicare, per scrivere ricette o per fare qualsiasi altra cosa, o per scrivere cataloghi di arredamento, non necessariamente per scrivere libri. Quindi c'è un elemento di uso comune e di abitabilità, di attraversabilità interessante, ed entrambi, lo spazio come la lingua, sono forse le due cose che maggiormente modellano la nostra esistenza. Cioè, noi siamo condizionatissimi e dagli spazi in cui abitiamo, nei quali comunque viviamo, lavoriamo, eccetera, eccetera, e dalla lingua, dai linguaggi, nel senso più ampio possibile, da cui siamo circondati e da cui siamo attraversati, perché proprio a dimostrazione che non esiste lingua sorgiva, qualcuno lo pensasse, si può costruire un testo a partire da cataloghi di arredamento. Ora ci spieghi come costruire il testo. Tutto questo serviva a farti parlare. Sì, il testo infatti nasce a partire da una fascinazione che è quella nei confronti del linguaggio dei cataloghi, dei Deblian, dei siti di arredamento, Ikea in primis ovviamente, però tutti anche gli epigoni, perché è un linguaggio secondo me interessantissimo dal punto di vista installativo e di manipolazione del linguaggio, per tanti aspetti. Uno che in particolare mi ha affascinato e anche disturbato, cioè lo riceviamo continuamente questo aspetto qua, però magari non ci si sofferma troppo, è il mix tra spinta alla vendita, questo è esplicito, evidente, e il sotteso moralismo di questa spinta qua. E infatti sono testi, come diceva benissimo Massimiliano, sono testi che ti spingono a fare qualcosa, e se lo farai otterrai un benessere. Io, come anche Massimiliano, ho la sfortuna di lavorare a scuola, e anche il linguaggio scolastico, per esempio, è pienamente moralistico, nel senso, se fai i compiti verrai promosso, se entri tardi prenderai la nota, e così via. Quindi se, allora quest'altra cosa. Però con l'obiettivo di convincerti che quello che ti stanno suggerendo sarà per il tuo bene, questa cosa qua. E questo, nel momento in cui uno fa un piccolo passo indietro e si accorge che il linguaggio pubblicitario è proprio forzatamente questa cosa qua, Packard lo chiamava il persuasore occulto, no? Quindi sotto traccia passa questo imperativo proprio. Ho pensato che poteva essere divertente proprio smontarlo e fargli creare degli imperativi, dei comandamenti che fossero o tautologici o assurdi fondamentalmente. E quindi io spaccio questo libretto dicendo che è un consiglio per gli arredi a casa e poi chiedo sempre come è andato poi l'arredo, insomma, se sono riusciti ad applicare qualcosa. Quindi ecco, più o meno è questa la genesi. E dal punto di vista, ecco, questo è interessante farlo insieme a Giulio, perché Giulio scrive quel libro lì, è prosa, effettivamente, no? In maniera evidente. E invece Massimiliano diceva questi sono versi, con le virgolette. Ovviamente da un punto di vista prosodico, tradizionale, è impossibile chiamarli versi, quindi li chiameremo stringhe, tasselli, pezzi di un puzzle che possono essere, volendo, anche smontati e rimontati. Quando l'ho presentato insieme a Marco, Marco aveva letto i testi saltando da un testo all'altro, in alcuni contesti ho letto l'indice come se fosse un testo e cose, giochi di questo tipo qua. Non ti dico però quali sono catappe e quali sono inventati. No, no, no, Mi piace mantenere questo fatto che non si capisce. No, poi una volta, come dici, capito il meccanismo, cioè poi riprodurli non è neanche particolarmente difficile. No, è interessante questa cosa del moralismo, perché mi viene in mente che c'era quel libro per alcuni versi piuttosto contestabile, di Manuele Goccia, sulla pubblicità, che si intitola proprio il bene nelle cose, cioè se ti compri quello, no? Cioè, non ti stiamo semplicemente vendendo un prodotto, ti stiamo vendendo un'emozione, un sentimento, un modo di vivere, eccetera. E a proposito del libro che citavi, I persuasori occulti, io ricordo che Sanguinetti lo voleva applicare direttamente alla letteratura, cioè diceva anche chi scrive è un persuasore occulto, cioè lui ha capito, descrive la pubblicità, ma in realtà sta descrivendo la Linguaggio lettera. fondamentalmente. Il linguaggio, esatto, perché io ti devo sempre, cioè il dato di fondo è che comunque devo convincere di qualcosa, o nel caso in questo a fare qualcosa. Qua c'è la progettualità, più che un classicone del Marzaioli, il progetto, l'arcovescio, ma insomma fasi, eccetera, cioè anche andando molto, molto indietro nel tempo. C'è questo elemento molto forte di, non dico prescrittivo, ma perlomeno di qualche cosa che viene pensato verso il futuro, una cosa da realizzare, appunto, cioè creare le condizioni affinché qualche cosa avvenga. In realtà questo testo è più che ai testi suoi che precedenti, è collegato a un progetto che è scomparso dalla rete, che è Ci stiamo pensando un la pochettino. Hot Gallery o T Gallery, come preferite, che era questo progetto che lo spiega meglio lui, anche se ho partecipato, però Sì, lui, era un l'ideatore era progetto lui. di, non mi ricordo ora più che anno, ma parecchio, perché mi ricordo che lo presentammo in un'installazione audio ad Albinea il secondo exit. Quindi Forse qualcuno si 2015. ricorda quando era io. 8-9 anni fa, Sì. e 2015, nasceva 2015. prima il progetto, quindi all'età di mio collo, e era praticamente l'idea era questa. Io è vero, amo molto l'architettura, amo molto l'arte contemporanea, soprattutto quella installativa, e mi ero messo in testa di scrivere installazioni, Fabrizio direbbe ecfrasi, su in realtà la descrizione di un'installazione che avveniva nel momento in cui tu la scrivevi, ma che portava in sé un elemento di iperrealismo e assurdo allo stesso tempo, per cui questa installazione era totalmente irrealizzabile. E di queste cose a un certo punto ho scritto una decina. E poi mi è venuto in mente di creare una galleria virtuale, cioè su internet creare una mappa con delle stanze, e quando tu cliccavi nella stanza trovavi un'installazione che però veniva scritta. E poi ho iniziato a invitare una serie di persone, molte, a un certo punto siamo stati tanti, a fare mostre temporanee, quindi amici scrittori, critici, artisti e bla bla. Qui ce ne sono alcuni, anche Massimiliano all'epoca, che poi la racconterai perché mi pare di ricordarla la tua, era scatologica la tua, se non ricordo male, eri tu che hai fatto Vagamente, quella era quella del water. no, no, non è un water, era un lavabo. Era lavabo che poi però. Sì, si usciva dallo scarico, Ah, praticamente, dallo scarico d'acqua. ok. E a un certo punto questa Hot Gallery ha ospitato tantissime installazioni. Ci sono state anche delle polemiche perché il nostro amico Andrea Raus scrisse Ah, sì. Un'installazione su una sorta di Sì. rituale No, è una setta una nazista di setta indiani nazista d'America, di se indiani non sbaglio. d'America, che Ci non so fu. che fa, e ci fu una scrittrice americana che Se si la prese innervosì per... parecchio per questa cosa, non capendo che comunque si trattava di una cosa ironica. Vabbè, e tutto questo poi ha visto un'installazione audio in un festival che si è tenuto un po' di anni fa in Emilia Romagna e poi niente, poi l'Art Gallery si è spenta in rete così come era sorta. Non è scomparso No, tutto, so. c'è un progetto, vediamo, con Benway Edizioni, vediamo, tra l'altro c'è un progetto di accogliere tutto quello che era stato fatto e poi forse lanciare uno No, sguardo al perché appunto futuro. questo è sicuramente collegato Sì, è alla collegato chiusura, perché perché c'è è proprio un'installazione sì, una dei molto chiaramente. motivi che ha guidato poi durante la scrittura è proprio questo elemento dell'estremizzare alcuni aspetti e nell'estremizzarli diventano appunto assurdi, cioè l'iperfunzionalità diventa qualcosa di fuori dalla realtà. Nell'Art Gallery ha più virato su quelle che sono le didascalie delle opere di arte contemporanea, no? Che se uno le legge a un certo punto sono quella la vera opera d'arte in molti casi e nel caso dell'Art Gallery era veramente così. Sì, tra l'altro, mentre tu avevi concepito la Hot Gallery, io proprio, ne avevamo anche parlato, ho scoperto che Édouard Levé, lo scrittore francese, aveva realizzato un libro intitolato Opere, nel quale pensava a 500 installazioni, in realtà apparentemente realizzabili in buona parte, non erano pensate necessariamente per essere realizzabili, ma erano semplicemente pensate e descritte, cioè non le aveva realizzate, mai le realizzerà perché nel frattempo si è suicidato. Però erano tutte installazioni possibili pensate Tra di l'altro, vario ricordo, tipo. si chiamava Hot Gallery Sì. un po' per creare confusione in chi lo Senza andava a l'H, è cercare, perché magari OK. capitava su siti di. No, stava per Off Topic Gallery, questo era il tema. Però effettivamente capitava che alcuni andavano a cercare la Hot Gallery, però era senza H. Era senza H, infatti, OT era off topic, Off sì. Topic, sì. Sì. Volete dichiarare altro? Insomma. Non so. Ci proponiamo anche come arredatori di interni, Sì, ovviamente, ovviamente. sì, questo è No, ovvio. un'altra Al cosa che vostro però rischio e è pericolo. una Esatto. nota esistenziale e non nasce, allora, grazie all'incontro con Antonio, alle parentela di questi due libri, è nato questo incontro, mi ha fatto molto piacere, ma la vera radice di questo incontro nasce molti anni fa con la creazione di un gruppo. Doveva dire per Di una forza. chat, se volevo dire, che era con Massimiliano e che si chiamava Marie Claire Maison, non a caso, cioè ci scambiavamo consigli, forse che ricorderai, ci scambiavamo consigli di arredamento, quindi la radice è che noi siamo veramente appassionati di arredamento e non poco peraltro, però ora qua la facciamo da figli, No, però possiamo in realtà sarebbe veramente interessante vedere case arredate secondo questo manuale sì. possibile, sarebbe divertentissimo provare a arredare gli spazi. Se Ikea ci lasciasse uno spazio installativo, potremmo sarebbe il massimo, Proponiamo. potremmo fare una joint venture con Ikea. Io invece leggendomi dopo anni mi veniva in mente la canzoncina c'era una casa tanto carina senza soffitto, senza cucina, Senza cucina. cioè sì forse anche quella è stata un C'è lontano, arrivato. un'influenza ricondita nella scrittura. Vabbè, qui insomma, i richiami ci sono anche ad altre cose, il coffee table citato prima, cioè citato prima come tavolino da caffè, come coffee table, insomma, da Alessandro Broggi, che tra l'altro anche lì era il moralismo lì è ancora più evidente, perché il coffee table book è il classico libro che tu metti a casa su un tavolino per far vedere quanto sei colto, up to date, cioè il classico catalogone, che so, Della della mostra. mostra di cui parlano tutti, eccetera, che sta messo lì apposta per farti capire, insomma, che il proprietario della casa è altro che moralismo, qua, nel senso, diciamo, la rappresentazione del soggetto è fantastica. E lì è citato appunto esplicitamente il tavolino da caffè messo, non ricordo, però mi ricordo che era messo in un posto strano, in un corridoio, in qualcosa del genere, Non lo so. ricordo. Non me lo ricordo, no. L'ho detto stamattina, ma non lo ricordo nemmeno io. A questo punto lasciamo le domande eventuali. Se ci sono, sì. Se voi avete Sì. da leggere. No, no. Domande, interventi. Continuiamo. consigli per consigli, avere... consigli, consigli, consigli per avere. Allora, prima cosa, complimenti, molto divertente, intelligente e politico. E volevo suggerirvi, scherzando, a proposito di linguaggio e di cut-up, non so se vi è mai capitato di cercare una casa leggendo gli annunci delle agenzie immobiliari. Altro che. È tragicomico. Sì. Una bella fonte sarebbe. Ancor più andarle a vedere rispetto a quello che hai scritto. Quello forse è tragico. Perché... comico e tragico, appunto. E poi un'altra cosa, mi piacerebbe vedere le vostre case. Insomma, è visita guidata. La mia meglio di no. È molto fedele al libro, effettivamente. Cioè, applicato proprio alla lettera quello che c'è scritto. Allora, rispondo con una battuta. Io ho partecipato a quel progetto, non so, possiamo chiamare progetto, quel lavoro che faceva Vincenzo Stuni, che in realtà credo che con poco, ma va ancora avanti, che è quello delle parole orrende. E una parte grossa del mio contributo era proprio quella relativa al linguaggio delle agenzie immobiliari rispetto... Sì, sì, l'avevamo messe tutte praticamente, perché basta, si può prendere una quantità di luoghi comuni incredibili, che dal contesto, in contesto signorile, panoramico, panoramico di solo sono di sottoscala, quindi cioè una proprio, sono antifrastici. Ottimo investimento. Esatto, sono proprio perfettamente antifrastici, cioè nel senso, se ti dice panoramico vuol dire che è un piano terra, cioè non c'è. Quindi quello sì, si può costruire, ma infatti credo che questa sia poi una permutabilità, insomma, molto, molto evidente, queste teste. Insomma, si può fare con la stessa cosa con la cucina o con, che è un altro mondo inverosimile, anche lì il moralismo secondo me è ancora più evidente, e con tanti altri spazi, diciamo, della pubblicità, non solo dell'arredamento. L'arredamento forse è quello più evidente. Sì, punto, cioè, stanno... però la casa è il posto in cui abita. Però sai, le macchine esatto. In realtà hanno tutta una serie di elementi oggettivi, sì. Che tu poi tecnici soprattutto, esatto. No? La casa del racconto, e ti devo pure convincere, capito? Sì. E poi forse la vieni a vedere, ma già ho vinto se la vieni a vedere come agente immobiliare, no? Certo. Anche perché poi se è brutta dico guarda come può venire, c'è tutta la annotazione, certo. La proiezione, guarda, la proiezione, cioè il progetto, ormai lo fanno tutti. Il progetto di una casa, sì, lei adesso lo vede così, però mettendo le tende giuste e il tavolino, il tappeto davanti. Di quanto la seconda casa è quella casa. Ricordo che cioè, non può mancare, se non sbaglio, dice proprio davanti al divano non può mancare il tappeto, perché quello ti dà pace, semplicemente perché c'è un... Cioè l'elemento pace ritorna un sacco di volte, no? Perché poi l'elemento moralistico che dice lui, no? Perché vuol dire che fuori c'è un mondo grande e crudele, però dentro casa almeno recuperi la pace, no? Come se fosse possibile poi separare i due spazi, come se non avessimo finestre sul mondo continuamente aperte e la casa stessa non stesse in qualche modo allegoricamente crollando. Altri interventi, domande? Ci metto. Sì, una cosa. In realtà lo spazio abitativo della casa è molto presente nella scrittura di alcune donne. Sì, sì. Tutte compresa. Ma dico, nel passato poche scrittrici magari in questo senso penso il caso femminile un po' più clamoroso è quello di Anna Maria Ortese che insomma ha descritto degli interni spesso veramente molto particolari, insieme claustrofobici ma anche accoglienti, soprattutto di Napoli, di Toledo, in questo senso abbastanza. E l'ha scritto tra l'altro in un periodo in cui si è fatta costruire una sorta di casetta dentro la casetta, per cui era una claustrofobia al quadrato, una sorta di scatola di legno in cui lei ha scritto all'interno della camera che abitava, per cui però insomma sì, c'è questo rapporto. Allora mi chiedo se effettivamente questo spostamento segnali effettivamente una rottura di alcuni stereotipi per cui la casa è solamente in qualche modo il luogo della scrittura delle donne, per diventare invece anche qualcosa, insomma, non più solamente di legato al femminile. E, sì, ecco. Marco ha sussurrato una stanza tutta per sé, perché non l'ha sentito, giustamente. Sì, sì. E poi l'altra cosa che mi viene in mente, vabbè, una trasmissione cretinissima che forse qualcuno di voi avrà visto, che però va su questo cortesia per gli ospiti. Sì, sì, che è una cosa terrificante, perché a me colpiva quando la vedevo, perché c'era questo invito fittizio a queste coppie, insomma, il pranzo era l'ultima cosa, e la prima cosa era l'invito a casa con questo esame, con questa rassegna dei particolari della libreria, come è fatta. Poi tra l'altro non so dove andassero a trovare questo qui, erano, che ne so, persone che sembravano persone comuni, ma avevano delle case della miseria, la libreria, la statuetta, il freschetto, il tappeto, che attenzione, stava davanti al divano, però non doveva debordare, perché ricordo una volta che la tizia che faceva le pubblici, ecco, disse che questo tappeto, sì, questo tappeto deborda un po', sta fuori, non supera lì, cioè fece un discorso però insomma dà l'idea di come un po' siamo condizionati, perché poi alla fine fa parte del nostro immaginario. E un testo che secondo me invece sul versante maschile può aver funzionato da ipotesto, per me credo di sì che abbia funzionato come ipotesto, è un vecchio racconto di Ray Bradbury, che di solito si trova antologizzato, forse si trova ancora antologizzato nelle antologie delle medie in particolare, ed è Verrà, c'è la grande dolce da piogge? Possibile, sì, perché mi sono andata a rivedere il titolo, perché io la grande dolce da piogge, ed è un racconto estremamente è una casa, ovviamente un racconto di fantascienza, perché gli esseri umani non ci sono, è la routine all'interno di una casa che non è più abitata da esseri umani, perché è successo un qualcosa per cui gli esseri umani non ci sono più, ma ci sono queste intelligenze domestiche che potrebbero essere delle intelligenze artificiali, ante litteram, diciamo così, che muovono, compiono la routine giornaliera anche in assenza di esseri umani. Mi chiedo se non sia stato in qualche modo, perché per me ha funzionato. Io ho ritrovato questo testo leggendo in classe ai miei alunni da anni fa dei testi di fantascienza. Non ricordavo, non sono una lettrice di fantascienza, ma vedendo questo testo, leggendo questo testo di Pompeo, mi sono ricordata di averlo letto a 12 anni, di sottobanco, tra l'altro, perché non ce l'ha fatto la professoressa italiana, io però leggevo, e ricordo di essere incampata in questo racconto che non ho capito, perché non l'avevo capito, mi era veramente lasciata un po' stranita, però ho capito che ha funzionato la... Ma secondo me c'è un immaginario, no? C'è un immaginario che, mentre parlavi, a me mi venivano in mente anche altre cose, però legate a quello che stai dicendo, te, tipo certa pittura iperrealista americana, oppure chissà perché mi è venuto in mente, magari qualcuno di voi l'ha visto, la sit, non so se si chiama The Rabbit di David Lynch, quella con i conigli. Una famiglia di conigli violentissimi all'interno di una casa che ricorda un po' le ambientazioni di cui stiamo parlando. Secondo me, a un certo, parlo almeno della nostra generazione, noi abbiamo avuto forse un retaggio di un immaginario che a un certo punto ha descritto la casa come qualcosa, o ci ha trasmesso la casa come qualcosa di non così ospitale e non così rassicurante, anche proprio come proposta artistica, letteraria o culturale, no? E, quindi secondo me c'è un immaginario sotteso che in qualche modo può aver influenzato. Non so, Antonio, perché non so se mi aggrego all'immaginario. Non tatua, tu sei un po' più giovane di me, quindi... Non ricordo il racconto, quindi a livello cosciente non lo so, però a livello di immaginario assolutamente sì. A me viene in mente, per esempio, anche la casa occupata di Cortázar, per esempio, che lo spazio domestico diventa sempre più stretto, no? Però visto che prendo la parola, volevo dire qualcosina sulla prima parte della tua osservazione, che ho trovato interessantissima, cioè il discorso di genere, che effettivamente... Qua siamo tre maschi che parlano di casa. Bianchi, ci dai, cominciamo. Tre maschi. No, bianchi. Pensate, effettivamente. Sì. O l'ennesima appropriazione, può darsi. Però sì, no, nel senso, ovviamente, storicamente, dal punto di vista femminile, è uno spazio già da tempo, spazio di costrizione e di sofferenza in qualche modo, no? Che adesso ne parlino i maschi, forse anche effettivamente il fatto che adesso ne abbiamo più dimestichezza, perché un po' la dimensione della famiglia si è trasformata, anche in positivo. Esatto. Però è vero che forse c'era un po', ora dirò qualcosa, c'è stato forse un tabù in certi, no? Io mi ricordo, per esempio, ora, prima scherzavamo dicendo Marie Claire Maison, io ricordo che quando io avevo la passione, ce l'ho ancora, quando uscì Marie Claire Maison in Italia, io ero molto felice di questa cosa, ma mi vergognavo andarlo a comprare all'edicola e mi abbonai. E per 2 anni o 3 io sono stato abbonato, perché effettivamente dicevo non vado là, ma non si... cioè, quindi c'avevo probabilmente il retaggio, magari nella mia famiglia un po', no? E poi però, chiaramente poi, ma parlo di quando c'avevo 20 anni, 21 anni, 20, non lo so, comunque un po' di anni fa. E forse c'era effettivamente un po' ancora questa questione di genere, per cui parlare di casa, interessarsi di casa, badare la casa, non sembrava più una cosa, no? Può essere, sì, e che poi ci sia stato fortunatamente giustamente la rottura anche di questo tabù, molti altri ce ne sono, però io la ricordo su me stesso, forse questa forma di distanza dalla questione casa, sia pure in tema decorativo e di arredamento. Sì, non lo vedo in termini letterari, invece, nel senso che invece quello è la conferma proprio dello stereotipo per cui la casa, quello diceva Fiammetta, era solo e esclusivamente lo spazio delle donne e non certo degli uomini. Cioè, adesso io prima citavo la nostalgia, no? È Ulisse che torna a casa, mica Penelope. Penelope sta chiusa dentro, da là è stata per secoli, quindi in alcuni casi continua a starci, e quindi lo spazio, penso in poesia o in letteratura, lo spazio in cui lo spazio domestico eccetera era sì di solito raccontato da donne e non da uomini. Cioè non mi vengono in mente, poi magari tra un attimo tu mi smentisci, dici guarda è quello invece. So, se penso alla poesia italiana del Novecento, so quali autori maschi hanno questo tema particolarmente forte. Forse Crepuscolari, sì, giusto, ma siamo 100 anni indietro, poi tutto quello che c'è dopo non l'ha dimenticato, perché è un momento di crisi, di chiusura, eccetera, perché... Oppure c'è D'Annunzio, con tutto quello che però consegue, cioè nel senso che loro fanno il gioco contrario... c'è lì la filosofia dell'arredamento, però c'è Matt Prats che scrive la filosofia dell'arredamento, la casa della vita, cioè c'è un uomo che si occupa in quel modo, come dire, vagamente ossessivo e claustrofobico di riempire lo spazio, però è interessante. Tornando invece sempre a quello che diceva prima Fammetta, sì, la fantascienza. Lui ci dava la domotica, cioè un classico, no? Quanto va avanti il mondo se domani mattina scompariamo completamente dalla faccia della terra? Quanto va avanti in senso tecnico, non quanto vanno avanti le lumache o le foglie degli alberi? Per un bel po', cioè, nel senso, cioè, ormai leggevo ieri che sono parlato di quel 54% del traffico di internet è prodotto da bot, non da esseri umani, quindi... hanno già la maggioranza, quindi possono andare avanti perlomeno per un bel po', no? Quello che dice Fiammetta, cioè la casa si svuota, gli esseri umani vanno via, il sistema, diciamo, tecnologico può continuare ad andare avanti. Però l'inquietudine della casa, l'horror l'ha scoperta, cioè, molto prima. Insomma, pensate a quanti film dagli anni 70 in poi, La casa, appunto, no? Banalmente solo quello. E quanti sono, poi, tra l'altro non lo ricordo neanche più. Io non sono un frequentatore dell'horror, però effettivamente ho quel film della casa costruita sul cimitero indiano, di cui in questo momento non ricordo il titolo. Cioè, la casa è sempre inquietante, cioè non è lo spazio di rassicurante, eccetera. Il Stoker fa partire tutto, e Stoker, Herzog, la casa, case. È dall'acquisto della casa, l'acquisto una casa, sì. Come si chiama, il personaggio principale che va dal conte, da conte in Romania, sì. La casa, sì. È lì la propria, sì. Sappiamo molto, sì. Infatti, cioè, quindi siamo gli autori horror, ma non lo sapete, sì, esatto. Una figata. Tra le back rooms. Io avevo scritto un libro sui zombie. Tu, è vero, hai scritto un libro sui zombie, è vero. Sì, quindi, guarda caso, quindi, appunto, che c'entrano molto con tutto questo. Quelli si muovevano dentro un supermercato. Una parte del discorso, forse sulla casa, nel corso del Novecento, si stacca nettamente. Appunto, ecco, c'è questo preziosismo, questo considerare la casa come. Di fatto tale era, cioè chi ne può parlare? Può parlare un borghese colto che ha a disposizione una quantità di stanze. Moravia, mi è venuto a me, Moravia, indifferente. Un annunzio, sì. Ancora Wismonte, no? Controcorrente, sì. Eccetera, eccetera, per arrivare poi invece alla dissipazione paradossale, autodistruttiva e distruttiva di Carmelo Bene, e sappiamo che siamo anche lì come procede il discorso. Mentre c'è poi un discorso invece minimale, che è tutt'altro Novecento, e stranamente corrisponde più forse con gli autori dell'assertività, più forse con i lirici lirici. Poi penso alla famosissima musica di Luciano Erba sui giovani sposi nel secondo dopoguerra, con la tovaglia a quadri, la descrizione dell'ambiente in pochissimi tratti, oppure Bertolucci. La camera da letto. Sì, sì. Ci avevo pensato da te. Giusto. Quindi è paradossale questa cosa. E ovviamente non si poteva arrivare. Però lì è proprio la nostalgia. La nostalgia di cui parla Valentina Tanni. Lì è proprio la casa, però pensa alla camera da letto di Bertolucci, la casa è lo spazio della memoria. Cioè, proprio è solo quello. Io penso a un libro fotografico di qualche anno fa di Michele Mari, che è Aster Usher, non so come lo pronunci lui, in cui sono tutte queste fotografie delle sue la sua casa di Milano e la casa di famiglia sul Lago Maggiore, ed è tutto pensato in chiave fantasmatica, ma fondamentalmente legato alla memoria. Assolutamente, cioè, quello è il luogo dell'identità alla fine, cioè luogo chiuso, lo spazio. Come anche l'ultimo libro. L'ultimo libro, esatto. Logos de Speranza. Tutto basato su come l'identità viene sostituita dagli oggetti. Dagli oggetti, sì, sì. Cioè, lui quello chiama l'esoscheletro, no? la conchiglia, eccetera, eccetera. Cioè, tutti gli oggetti diventano luogo dell'identità. Però in quel caso non sono gli oggetti standardizzati. Se avete visto le foto della casa di Milano di Michele Mari, non sono gli oggetti standardizzati di Ikea. Ma sono oggetti ben presi. No, spesso sono oggetti. Io ricordo una cosa che mi colpì moltissimo: era un pezzo di scambio di binario del tram raccolto dal padre negli anni 50, quando stavano modificando le rotaie, ovviamente stavano modernizzando la rete a Milano dei tram. Lui porta a casa questo pezzo di metallo che ha una forma particolare. Lui racconta questo oggetto, è un oggetto senza res nullius, cioè non vale niente, eccetera, non si capisce neanche cos'è se non te lo raccontassero. Quindi non è necessariamente l'oggetto trovato nel mercatino antiquario, è proprio l'oggetto trouvé, proprio surrealista letteralmente. Non è nient'altro che quello. Una cosa che mi sembra manchi, per collegare un po' questo discorso con quello che si faceva prima, nel Novecento forse allora più che la casa in sé, no, è proprio la cura della casa. Sì. Che, cioè, nel che senso che questi due libri sono là il progetto, sì. Qui è sistemare le cose della casa, sì. Io penso, che so, D'Annunzio, ma anche Gozzano, che è l'altro lato della medaglia, sono due contemplazioni della casa in realtà, una in senso eroico decadente, l'altra nel senso ironico, piccolo borghese, no? di piccole nostalgie, però non spolverano un soprammobile in effetti. E quindi forse è questa cosa che è entrata un po' più avanti e in questi casi diventa anche un po' l'inquietudine è quella anche di tenerla la casa, no? Sì. Tenerla in ordine, no? E mantenere, o tenerla proprio nel senso di esatto. Trattenerla in qualche modo perché è completamente sfuggente. Posso fare una considerazione che è anche quasi una domanda, però la porrò come considerazione. Per ricollegare anche il discorso dell'inquietudine legata alla casa e anche al discorso sulla tradizione del Novecento della casa, insomma c'è anche un aspetto legato all'idea di labirinto legata alla casa che parte in realtà, secondo me, anzi, in che parte secondo me diventa molto evidente in tutta la scrittura. Non parte essere evidente nella scrittura postmoderna, il discorso del labirinto come città, meglio la città come labirinto, e che poi va inevitabilmente anche a diventare la casa stessa un labirinto, un posto inquietante anche perché rischi di perdere la stessa casa. È una cosa che ho trovato, io non ho ancora letto il libro perché non l'ho ancora recuperato, però è una cosa che dalle letture secondo me è emerso anche ad esempio in entrambe le visioni, soprattutto in quella di Antonio, perché hai questa ricorsività delle stesse come dire, descrizioni, ma non solo delle descrizioni, anche delle ricorsività degli usi che puoi fare di un oggetto che vanno a concatenarsi, a entrare dentro se stesso in una forma quasi frattale. E se me si ritrova molto quest'idea di labirinto, che è una cosa inquietante. La ritrovi nei postmoderni e anche per ricollegare al Novecento, ma in realtà è una cosa, un aspetto che troviamo nella poesia di tanti altri autori. Secondo me, ad esempio, anche in Corrado Costa ci sono dei momenti in cui, dico Costa perché è una lettura che sto approfondendo molto nell'ultimo periodo, in Invisibile pittura lui fa una grossa divagazione fondamentalmente sul significato degli ambienti. È una più piccola, anzi, un testo vero e proprio, non è sulla casa, ma in cui la casa ha un ruolo importantissimo, e si ritorna al discorso del labirinto, che è Storia della Sarta, in cui noi leggiamo queste serie di eventi in cui fondamentalmente vanno all'indietro, il tempo va all'indietro, vediamo gli eventi, però via via vediamo l'evento precedente a quello che abbiamo appena letto, diciamo. Fino a che non arriviamo alla ricostruzione, si ricomincia, diciamo, col testo, ma quando ricomincia il testo noi vediamo, ci perdiamo nei meandri della casa e dello studio di questa sarta, e i pezzi di testo vengono arrangiati come le forme del modello della carta, la carta modello del vestito. Quindi secondo me comunque in realtà la casa è sempre stato un tema caldo della poesia e della scrittura. Forse quello che cambia, almeno da un centinaio, forse 100 anni, no, però 50-60 anni sicuramente, forse quello che cambia è, come diceva Antonio, il modo in cui l'abbiamo inteso, sia in termini di sesso, perché appunto magari anche adesso anche gli uomini hanno per fortuna un po' più di contezza di come si gestisce una casa, ma forse è cambiato proprio anche a livello sociale come intendiamo la casa. Io non lo so, adesso sono di una generazione abbastanza recente, la casa non si compra, ma proprio non è inteso come oggetto da comprare, è inteso come... mio padre, ad esempio, lo intendeva come investimento, varie volte abbiamo fatto questo discorso, è veramente un oggetto, per noi non è un oggetto, almeno nella mia generazione vedo che non è intesa come oggetto, è vista come un posto, ma come lo può essere un bar. E quindi cambia radicalmente proprio il senso, no? la semantica della parola casa. Anche perché se il labirinto è la città, vuol dire che persiste ancora la casa. Cioè, nel senso, uscendo dalla casa c'è la città come caos. E la casa quindi fa da antitesi al caos. Adesso ho la sensazione che il caos sia entrato dentro la casa in qualche modo, quindi quello la scombina completamente, ed è, mi sembra, almeno, un po' il segno proprio anche di come gestiamo le relazioni. Sì. Penso al fenomeno degli hikikomori, per esempio, no? Si capovolge il modo di gestire la casa e anche la percezione del rapporto tra casa e mondo. Quindi è tutto completamente invertito, e ovviamente se entra una dimensione labirintica all'interno dello spazio che dovrebbe essere così lo spot di riposo all'interno del labirinto, e esplode tutto. No, ma tra l'altro le back rooms citate prima sono sempre labirinti, che hanno questa evidenza, e sono poi, essendo spazi liminali, sono spazi di passaggio in genere, no? che è un po' quello, tra l'altro, una soglia, eccetera. Sì, il discorso di stabilità, cioè più che labirinto, io partirei di parlerei di instabilità, cioè nel senso che c'è cioè un senso di precarietà che è tanto negli spazi quanto nelle relazioni, eccetera. Mi stava venendo in mente, ma veramente così come flash, a proposito della cura della casa, che è l'unico racconto che mi viene in mente in cui uomo pensa alla cura della casa è un racconto memorabile di Kafka, che è la Tana, non a caso la Tana, che è questo che continua sempre, perché però con l'idea vecchia della casa, no? C'è lo spazio da difendere rispetto all'esterno, e continua a vivere con l'ossessione senza sapere che tratto, che cosa sia, che parla, che tipo di animale, se è un essere umano, eccetera. L'ossessione di curarsi della casa, cioè avere la percezione che da qualche parte c'è una breccia che potrebbe entrare qualcuno, quindi correre a chiudere quella breccia, poi correre dall'altra parte. Cioè, racconto non claustrofobico di più, quindi però è l'unico che, però non si parla di casa, si parla di Tana, guarda caso, non è un caso, infatti. No, Michele. Sì. No, volevo aggiungere un appunto, perché in realtà delle panoramiche che abbiamo fatto adesso ci siamo carellati, fino adesso hanno indicato, insomma, alcune esperienze letterarie che io trovo molto ficcanti per tutte e due, cioè fatto dagli anni 50 in Francia, ma non so, insomma, con di Legar prende lo spazio, lo svuota, sì. Sì. Lo svuota, lo lascia vedere, lo zoom per certi dettagli, penso alla geografia, fa tutto quel lavoro lì, cioè che è lo stesso che fate voi sotto molti aspetti. E poi l'esperienza, per esempio, penso a Perec, sì, infatti, sì. Alla vita per l'uso, spazi di spazio, cioè tutte esperienze costruite su degli spazi che sono svuotati. E questo potrebbe andare a calibrare un pochettino lo spostamento di genere, cioè lo spazio della casa femminile è anche dato. Lo spazio che descrivete voi è vuoto, neanche molto spesso quello della scuola dello sguardo, queste cose sono molto spesso spazi svuotati. Nella introduzione per l'uso, metà del libro descrive spazi vuoti, più della metà del libro spazi vuoti, spazi comuni, che trovo molto, molto in tema con il tipo di sensibilità dei due, sotto due punti diversi. Sì, diciamo che Perec l'avevo semi-evocato prima, citando le storie del pavimento di Gherardo, perché insomma forse è lo scrittore più perecchiano che abbiamo in Italia, quindi in qualche modo l'infraordinario di Perec mi sembrava evocato. Sì, è vero, perché Perec soprattutto, nell'evocato di Legar non ci avevo pensato, è vero. In Italia c'è un tipo di esperienza che relativamente forse qualche punta di Sì, io pensavo a Calvino, sì, solo a Calvino. Beh, no, prima mi veniva in mente il racconto degli amori difficili di questi due che non si incontrano mai praticamente, perché lui fa la notte e lei lavora di giorno. Ci sono cioè, spazi archiviati a una storia che dà loro importanza, mentre gli spazi di loro vivi, per esempio, sono completamente abusi. Cioè, sono abusi, non abusi, però sono anche abusi. Anche quelli di Perec, aver citato il primo limite, però questa esperienza sta anche quello Simone in qualche modo. No, le cose lui effettivamente non avevo pensato, è vero. Vabbè, Perec secondo me come lettura secondo me è qualcosa che c'è dietro questi altri. Cioè, sì. Per me sì. Per esempio, Perec degli interni è una cosa, Perec degli esterni, sì. Per esempio il tentativo di descrizione di esaurimento in un luogo parigino. Cioè invece c'è una quantità di, diciamo, un zio di oggetti, di persone, sì. Nel mento che è diverso dal discorso di interno. Eh, Massimiliano, comunque, chiaramente adesso vi tocca questo saggio sulla storia della casa. La storia della casa, dalle origini, in letteratura, dalle origini a giorni nostri. Da Omero, no, da Omero, l'ho citato io per primo, quindi da Omero. Il libro collettivo I saggi che deve scrivere Massimiliano. Sì, esatto. No, esatto, c'è l'indice, faccio un libro di indici, sugli indici, dovrebbe essere... Non so cosa si stiano dicendo, vabbè, io vi ringrazio anche a nome loro che sono distratti. Ai saluti finali. Stavamo nella parte IKEA di promozione del libro. Ah sì, adesso parte la sigla. No, stavo pensando, ma qual è il prezzo giusto di questo libro? Centinaia di euro ciascun libro, ma questa sera eccezionalmente stavo pensando anche a beneficio del resto, perché prima ci avevamo detto un prezzo che però è difficile poi spicciare se qualcuno mai si volesse comprare, ovviamente. La butto lì o no? Come vuoi? Va bene. Va bene, cioè stavo pensando questa sera di metterne 2 a 10 euro. Cioè, chi ne compra più 10 euro, chi ne compra uno 27. Vale voi. E non abbiamo il resto. Faccio notare che qui, peraltro, ci sono delle copie del libro di Giulio che non sono in mostra. Esatto, ma queste. Se io vengo a mancare domani, quelle veramente rare parlano tantissimo. Perché sono quelle spillate. Esatto. E non... incollate il libro, quindi questo, allora, essendo raro, è rilegata in brossura. Questo che fu il primo ne fecero un tot di copie rilegate, spillate, no? E non piacque automaticamente, poi l'hanno rifatto, sale il prezzo perché è molto in brossura. Raro. Mia zia ha comprato tutte le opere della prima stesura, quindi non ci sono più. E quando ha chiamato l'editore per questa serata, ha detto: ma veramente mia zia ha comprato tutte questa per novia? Però in effetti era andata esaurita. Ho detto: che faccio? Ci ho pensato tardi. Ho detto: no, ma abbiamo queste spillate. E quindi queste sono effettivamente rarissime. Non mi augurate di scomparire presto per farne apprezzare il valore, però non valgono di più di quello, ovviamente, però sono rilegate in maniera diversa. Eccezionalmente questa sera comunque tutti e due costano 10 euro a copia. Grazie a tutti e a tutti.